24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Purtroppo politicamente il nostro partito ha scelto di suicidarsi in tanti insieme a Raffaele Fitto. Non siamo d'accordo con questa linea e daremo battaglia. Ma non c'è nessun suicidio politico, Berlusconi ancora una volta al centro dell'attenzione, esattamente il contrario. È un'ulteriore affermazione politica della indispensabilità di Berlusconi. Il dissenso fittiano quindi è un dibattito che si apre nel partito, ma non c'è nessuna scissione. Noi sul Quirinale secondo me saremo piuttosto compatti. Io credo che vedo Forza Italia francamente in ottima salute. Io credo che essendo Fitto un bravo politico sia una rottura tattica e poi conoscendo Berlusconi non sarei sorpresa di nulla. Onorevole Raffaele Fitto, buongiorno. La sua è solo allora una rottura tattica, come dice Nunzia Di Girolamo? Buongiorno, e non è nessuna rottura per quanto mi riguarda. È tempo che lo dico, si tratta di fare una battaglia decisa, chiara, forte all'interno del mio partito, cosa che continuerò a fare, sì. Laddove non condivido in alcun modo insieme a tanti altri colleghi una serie di scelte, comprese le ultime, che sinceramente sono totalmente incomprensibili e vanno combattute con tutte le nostre forze. Senta, ma la legge elettorale doveva o non doveva essere fatta insieme? La legge elettorale sì o no? Sì, assolutamente sì. C'è un problema però di merito. Se noi partiamo con una legge elettorale che fu concordata col patto del Nazareno e proposta alla Camera e leggiamo il testo approvato, l'emendamento approvato Esposito, approvato martedì al Senato, ci rendiamo conto che non c'è nulla che abbia a che fare col testo approvato l'altra volta. Senta, però non si tratta di fare la legge elettorale insieme, si tratta di aver accettato totalmente e supinamente tutti i diktat di Renzi. Senta, mi sembra che sia un altro tema. Onorevole Fitto, però con questo accordo Berlusconi riprende il centro della scena politica. È un errore? Un prezzo pagato per un risultato politico? Un errore? Ma secondo lei non poteva accadere la stessa cosa? Non lo so. Io non lo so. Io glielo dico perché le dico il mio punto di vista. Sì. Senza cedere tutto questo, come si fa ad approvare una legge elettorale che non è nemmeno lontana parente di quella che noi avevamo immaginato, che accetta totalmente le condizioni del Partito Democratico, che mortifica totalmente. Però rimette, sì, però onorevole Fitto, d'accordo, questo l'ha detto in questi due giorni, l'ha detto con chiarezza, però rimette al centro Berlusconi. Berlusconi più forte, Renzi più debole, è uno schema che non le piace? No, è uno schema che io non vedo sinceramente, perché ne parleremo nei prossimi giorni, quando invece le cose magari non andranno in questo senso. Io non so quali sono gli obiettivi e i risultati che possono essere raggiunti e soprattutto sono convinto che non ho mai... Che potrebbe essere sorpreso però anche, no? L'aver approvato con i tempi di un decreto legge, una legge elettorale e la riforma costituzionale sinceramente è incomprensibile. Per avere una garanzia il nostro partito poteva posticipare di 10 giorni l'approvazione della legge elettorale e della riforma costituzionale. Vabbè, lei suggeriva una tattica diversa. Senta, adesso torna Alfano con Berlusconi e lei invece se ne va. Sembra il gioco di 4 cantoni dentro Forza Italia. Allora, chiariamo, io non me ne vado. Lei non esce dal partito, no? Questo è chiaro. No. Lei fa una battaglia interna di minoranza. Questo e quindi non me ne vado. Perfetto. Questo lo voglio ribadire e sottolineare. Il fatto che arrivi al Stato non lo so, lo vedremo. Se c'è un lavoro da fare... Che mette ma sarebbe un bene se arrivasse al Fano, secondo lei o no? Guardi, questo dovrebbe chiederlo... No, lo chiedo a lei, secondo lei. No, le rispondo. Rispondo anche in merito. Questo dovrebbe chiederlo a chi un anno fa ha dato del traditore ad Alfano e oggi invece magari immagina di poter fare un percorso comune. O si è sbagliato un anno fa o si sbaglia adesso. In politica si sbaglia spesso un po' tutti. Senta, onorevole Fitto, pensa anche lei come Fassina che i 101 contro Prodi erano organizzati da Renzi? Ma guardi, questo non glielo so dire, non perché lo è un sa, tema che riguarda interno il Partito Democratico e si è votato all'epoca col voto segreto, quindi sono questioni interne al Partito Democratico. Io penso che noi ce ne abbiamo già tante all'interno di Forza Italia. È sufficiente. Mi dedicherei a queste. Senta, al Partito Democratico. Ma dopo il patto del Nazareno ci sarà il partito del Nazareno? Guardi, io ho ieri detto con una battuta che lavoreremo per sgualcire gli abiti blu di chi pensa di entrare al governo, quindi noi siamo assolutamente contrari a questa ipotesi. Ho letto delle dichiarazioni che sono cambiate in queste ore. Prima si è detto che i nostri senatori sostituivano, cambiando maggioranza, i senatori del Partito Democratico. Poi ho letto delle dichiarazioni che dicevano che era prematuro il nostro ingresso. Stamattina leggo delle dichiarazioni che sostanzialmente un po' lo escludono. Vabbè, è tutto in movimento, diciamo. Non lo so, lo vediamo. Senti, se lei chiede a me un parere, io dico che sono assolutamente contrario, perché sarebbe un tradimento clamoroso dei nostri elettori, certo, quello di entrare al governo, certo, di un governo guidato dal segretario del Partito Democratico. Senta, no, ma infatti io ho chiesto se c'è all'orizzonte un partito del Nazareno. Senta, adesso Renzi e Berlusconi eleggeranno insieme il Presidente della Repubblica. Lei ha in mente chi può essere, senza dirmi che deve essere una persona autorevole sopra le parti? No, nomi non gliene farei, perché sarebbe abbastanza presuntuoso da parte mia fare dei nomi. Io penso che Forza Italia debba avere un confronto interno nei prossimi giorni, valutare i nomi ed esprimere, mi auguro, una posizione compatta. Senta, tutto questo dipenderà da un metodo che non può essere quello di comunicare un minuto prima del voto un nome. No, ma infatti si incontreranno tutti, mi pare di capire. Un nostro ascoltatore, Luca, ci dice: Minoli, chieda a Fitto se non si sente il Fassina di Forza Italia. Si sente il Fassina di Forza Italia? Ma sono situazioni assolutamente differenti per quanto mi riguarda. Io conduco una battaglia all'interno di Forza Italia, ma lo faccio soprattutto sulla base di ragioni che io ritengo essere ragioni oggettive, nel senso che noi chiediamo di fare l'opposizione, noi chiediamo di essere un partito di centrodestra, noi chiediamo di essere alternative. Senta, onorevole, non mi sembra che siano caratteristiche queste che possano essere paragonate con altre situazioni. Fassino, un'ultima domanda, ma lei voterà secondo le indicazioni del partito per il Presidente della Repubblica o si tiene le mani libere? Se il Presidente della Repubblica verrà fuori da un percorso interno al nostro partito di coinvolgimento e avrà le caratteristiche che possono essere condivise, vabbè, da un non lo come sa ancora, Italia, diciamo. Sicuramente sì. Ora non glielo posso dire perché non so di chi stiamo parlando. Però intanto qualcuno dei suoi comincia a sfilarsi, ho visto che la Polverini non è più, insomma. Guardi, le do una notizia. Sì, io ho letto ieri, ho letto ieri questa notizia sul Corriere della Sera. Lei lo sa che in sei mesi nei quali io ho riunito ogni settimana un gruppo di parlamentari, la Polverini non ha mai partecipato. Ah, ok, non so, allora non so come nasce la notizia. Senta, c'è una domanda di Pietrangelo Buttafuoco. Buongiorno. Il caso di Antonio Martino, bruciato in un solo pomeriggio, ma a che punto è lo scollamento tra l'elettorato di centrodestra e questa leadership, secondo lei? Guardi, io ieri ho fatto una dichiarazione alla domanda su Antonio Martino, ho detto che io mi sarei posto il problema di utilizzare molto di più e molto meglio una personalità come Antonio Martino in questi ultimi 20 anni anziché bruciarlo in un pomeriggio in una votazione strumentale. Ah, ho capito. E quindi l'ho detto ieri in conferenza stampa e glielo ribadisco adesso, sono assolutamente d'accordo che questo sia stato un passaggio che non meritava una personalità, insomma, è stato bruciato come Antonio Martino. Grazie onorevole Fitto, buon lavoro. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Domani saranno 12 anni dalla morte dell'avvocato Agnelli, un grande personaggio dell'industria, della finanza, anche della politica italiana. I giudizi su di lui sono naturalmente affidati agli storici, ma intanto si cominciano a sentire delle voci di dissenso, come quelle di Renzo Rosso e Della Valle. Era un politico che usava il sistema per i propri interessi. Gli Agnelli hanno fatto più bene o più male all'Italia, secondo lei? Beh, tirando le somme oggi, molto più male, soprattutto in considerazione di quello che l'Italia ha fatto per loro. Rosso e Della Valle. Noi comunque vi riproponiamo, per ricordarlo, invece uno stralcio di un famoso faccia a faccia dell'avvocato a Mixer. Avvocato, lei qualche anno fa è stato soprannominato l'avvocato di panna montata. Ecco, la prese come? Dovrei essere non breve in questo caso. Mi lasci venire all'occasione. Questo era un articolo di Scalfari di circa 10 anni fa. Era il periodo in cui la Fiat era entrata nel Corriere della Sera e uscita un anno dopo. Eravamo entrati in posizione interlocutoria per passare da un'editrice pura a quello che allora si chiamava un editore puro. Scalfari si seccò di questo, voleva che io rimanessi socio di Rizzoli e concludeva il suo articolo dicendo: Agnelli è infinitamente più simpatico, ma è fatto di meringhe e di panna montata. Qua ci vuole un uomo con il sedere di pietra.

che l'ho avuto modo di giudicare certamente un uomo di grandissima qualità. D'altra parte, una casa seria come il Partito Comunista, quando si sceglie un segretario, se lo sceglie secondo le loro tradizioni a vita, quindi è logico che scelgano una persona di altissima qualità. Come mestiere fa il capo dell'opposizione, lo fa bene. Io mi auguro ed auguro al Paese che possa continuare a far bene un mestiere e l'altro a lungo. Avvocato, parliamo di cose frivole. Per lei qual è stato il più grande giocatore della Juventus? Le dico due: Parola e Boniperti. Senta, ma di calcio ci capisce più lei o Boniperti? Senta, lui ha giocato e per capire bene il calcio il parere di quelli che hanno giocato, e capisco che certamente vale di più di quelli che non hanno giocato, quindi senza dubbio lui. Sì, però lei ha anche detto, quando Boniperti non segue i miei consigli fa delle sciocchezze. Ma questa è un'altra cosa, delle sciocchezze ne ha fatte come? Delle sciocchezze ne ha fatte come? Quali sono ma le questo ultime? Lo dicevo, guardi, per due ragioni. Una, perché voglio confortare, non so, i presidenti di altre squadre per fargli pensare che anche Boniperti fa delle sciocchezze. Qualcuna me la dice. Te ne dico una divertente, una storica, clamorosa, una divertente e clamorosa. Siamo ai campionati del mondo in Argentina. Io ricordo, telefono a Boniperti, gli dico: Boniperti, mi hanno segnalato un giovane che ha delle doti eccezionali, ti prego di farlo guardare. Si chiama Maradona. Ho detto, questo nome che sembra una bestemmia, non mi stia a scocciare. Dico: Boniperti, guarda che deve essere qualcuno. Risposta di Boniperti: se fosse qualcuno lo saprei. Beh, stavolta si è sbagliato. Ma è vero, ma è vero che lui si è comprato Boni e che lei Platini si è comprato quasi di nascosto? No, no, Platini, io non comprai mai di nessuno di nascosto a Boniperti. Platini ci aveva il suo consenso e soprattutto l'ha comprato per un pezzo di pane. Avvocato, ma lei perché ce l'ha tanto con Boniek? No, non ce l'ho con Boniek. Boniek è un grandissimo giocatore e ha le caratteristiche del suo paese. Le caratteristiche del suo paese sono quelle, si diceva all'inizio della guerra, dice solo i polacchi e i finlandesi hanno caricato a cavallo i carri armati tedeschi, ma i polacchi credevano di vincere. Questa è la natura di Boniek. Senta, avvocato, parliamo un momento della sua famiglia. Lei ha due figli, un maschio e una femmina. Ecco, cosa pensa che sia importante insegnare a dei figli? Diciamo a dei figli, come dire, ai giovani. Credo che è importante che abbiano fiducia in se stessi, fiducia nel loro paese, e che qualunque cosa vogliano fare la facciano bene, cerchino di farla bene. Bisogna andare verso l'eccellenza delle cose che si fa. Ecco, ma lei c'è riuscito a dare questo tipo di stimoli ai suoi figli? Non lo so, ci ho provato, riuscito, non lo so, è troppo questo. Ecco, e anche nonno lei oggi? Sì, sono anche nonno, ma i rapporti con i nipoti sono quasi nulli. Quasi nulli? Sì, sono... Senta, avvocato, lei è un simbolo del successo, l'abbiamo detto prima, è stato operato alle coronarie per guarire da un male che è proprio degli uomini di successo di oggi. Ha avuto paura? No, paura nessuna, no, paura nessuna. Proprio nessuna? No, nessuna, nessuna. Diciamo, l'unica preoccupazione che avevo era se dopo l'intervento fossi rimasto parzialmente invalido invece che recuperare completamente. Questa era la preoccupazione, ma non paura dell'intervento. Ma lei crede in Dio? Mi hanno educato in questo senso e credo nel sistema in cui sono stato educato. Senta, avvocato, lei ha sempre detto di sé di essere un uomo del futuro. Ecco, qual è il futuro per l'industria oggi? Quello di nel settore manifatturiero, come dice Romiti, o nell'elettronica e nei servizi, come dice De Benedetti? Ma non, diciamo, non sono alternative queste no, due cose. Io credo che sono del futuro tutte e due, cioè non esiste senza l'industria manifatturiera l'industria del servizio o l'industria. Senta, Romiti e De Benedetti sono stati entrambi amministratori delegati della Fiat. Che differenza c'è tra i due? Ma uno è stato 100 giorni e l'altro è stato 10 anni. 100 giorni ha avuto appena il tempo, quindi, di giudicarlo. Direi che lo si può misurare dai successi successivi, non da questo. Quindi è inutile chiedergli con chi si è trovato meglio. Ma con Romiti mi trovo, quando sono a Torino, tutti i giorni, come con l'altra persona ha avuto una. All'epoca dello cosiddetto scandalo delle tangenti fu arrestato, poco dopo rilasciato, anche l'uomo della Fiat che ha detto i rapporti con l'amministrazione pubblica. Sì, come questo, mai? Beh, questo qua, diciamo, lasciamo alla magistratura di decidere. Per quanto riguarda me, noi, la Fiat, l'uomo è certamente un funzionario integere. Affari e politica in ogni caso a Torino sono da sempre collegati e qualcuno ha parlato di un super partito sponsorizzato dalla Fiat che gestisce da sempre la città. È fantasia e stupidaggine questa. Avvocato, lei spesso dice che quello che è bene per Torino è bene per l'Italia, non le sembra troppo? No, io non lo dico mai, ma me lo attribuiscono sempre. Che ma bene lo pensa per... o no allora? No, io quello che le dico è questo, che è un assurdo dire che quello che è bene per Torino è bene per l'Italia, però ho constatato mille volte che come si dice, quello che è male per Torino, quello che è male per la Fiat, è sempre un elemento di preoccupazione per l'Italia. Senta, ma lei parlando con Levi ha detto che la gente mi crede perché non ho mai abbandonato nell'automobile, né la Fiat, né Torino. Insomma, un proclama da re. Che cos'è Torino per lei allora? Quando lei dice un proclama da re, pensa all'appartenenza di qualcuno a qualche posto. La verità mia è che la mia appartenenza è nella Val Chisone. La Val Chisone si estende tra Pinerolo e Sestriere. Io mi trovo a casa mia quando mi lascio a destra la scuola di cavalleria, a monte, cioè il Monte Sises nella neve. Quelle sono le terre dove mi trovo a casa. Torino è una città dove siamo andati per lavorare, a Torino centro delle mie responsabilità, del mio lavoro, ed evidentemente la città a cui dedico più tempo. Avvocato, parliamo di un'altra cosa frivola. Lei è un uomo molto amato dalle donne. Che effetto le fa questo? Se è vero non può che farvi piacere. Ecco, ma l'amore per le donne che cosa rappresenta nella sua vita? Se è rappresentato qualcosa di importante? No, guardi, ci sono due tipi di uomini. Ci sono gli uomini che parlano di donne e gli uomini che parlano con le donne. Io di donne preferisco non parlare. Ma c'è qualcosa di importante allora che lei ha fatto nella sua vita per amore di una donna? Io ho detto di donne preferisco non parlare. Parlavo di cose. Ne parla metà paese, metà del tempo. Non mi vuole neanche dire qual è la più bella che ha conosciuto? E questo è come il miglior calciatore, diciamo. Forse Eddie Lamar, se andiamo in quella generazione. Ma lei è innamorato? Lo ero difficilmente a 20 anni, si immagini se all'età mia sono innamorato. Ma lei vede un futuro nel mondo degli affari per le donne? Sì, questo non ho nessun dubbio. Il futuro è dato per una migliore utilizzazione delle risorse umane. Nella migliore utilizzazione delle risorse umane, senza nessun dubbio, ci saranno più posti di responsabilità per i più giovani e per le donne. Cioè vedo un ventaglio che si apre con più posti per donne e giovani. Senta, e almeno dirmi qual è l'uomo più importante che nella sua vita? Sì. Nella mia vita l'uomo più importante è stato certo mio nonno, perché è stato l'uomo più importante familiare e di affari. Ma diciamo, a parte lui, l'uomo che l'ha colpito di più? Ma l'uomo che mi ha colpito di più è Winston Churchill, certo. Senta, avvocato, lei è amico sia di Kissinger, repubblicano, che dei Kennedy, democratici. Qual è l'America che preferisce? Quella di Reagan e di Kissinger oppure quella dei Kennedy e di Hart? Mi pare che, non voglio dire che sia lei che stia confondendo, ma le Americhe non sono proprio così divise. In naturalmente, è una semplificazione. Se l'America di Kissinger o di Kennedy, non bisogna dimenticare che Kissinger è stato consigliere di Kennedy prima di passare ad aiutare l'amministrazione repubblicana e poi essere segretario di Stato. Io personalmente, come tutti gli europei della mia generazione, della mia formazione, del mio tipo di educazione, mi sento molto più vicino ai democratici. Mi sento più vicino ai democratici anche perché è stata l'America di Roosevelt che è venuta qua e ha liberato l'Europa. Ma secondo lei, avvocato, qualcuno dice che dopo Nixon in America la politica intesa come confronto delle idee ha perso e che oggi il potere lo esercitano le lobby economiche e finanziarie direttamente. È vero o no questo? No, io quello che direi è questo, è che c'è stato un grosso potere dei mass media negli Stati Uniti. Questo potere dei mass media si è accumulato con la guerra del Vietnam, ha dato il suo colpo col Watergate e poi ha giocato un ruolo enorme nella scelta e nella nominazione di Carter. Non essendo Carter stato un grosso successo come presidente, da quel momento il potere dei mass media è andato calando e sono arrivati fino al punto, diciamo, dell'operazione militare di Granada di essere completamente esclusi ed espulsi dalla ruota. Senta, ma secondo lei la politica democratica, così come organizzata in Occidente, può resistere alle pressioni, diciamo, delle lobby, degli interessi economico-finanziari oppure è destinata a soccombere? Cioè questo scontro democrazia e potere economico. Esatto. No, io direi questo, che lo sviluppo delle società moderne vuol dire lo sviluppo del potere economico, del progresso, dei posti di lavoro, della tecnologia, dei mercati, del benessere, del modo di vivere. E non può esserci contrapposizione tra politica e progresso economico, sono la stessa cosa. La politica deve interpretare il progresso economico. Avvocato, un'ultima domanda. Il gran maestro della massoneria, Armando Corona, ha detto che per un giovane che sia solo bravo, intelligente e capace, ma senza protezione, nella vita è quasi impossibile riuscire. Lei è d'accordo? È proprio una stupidaggine da massone. Avvocato, un'ultimissima domanda: chi sarà l'erede di Gianni Agnelli? Vede, lei pensa alla Fiat, diciamo, che è il posto di maggior responsabilità, sì, mia. Per me la Fiat dovrà succedervi qualcuno che ha il senso della Fiat, che vuol dire il senso di quei valori in cui la Fiat è stata fatta. Chi mi succederà dovrà accompagnare la Fiat al centenario, alla fine del, verso la fine del secolo, e si troverà a guidare un'impresa formidabile, dei collaboratori eccellenti, e ritengo non avrà una vita facile. Ma un nome? No, no, non sa, non posso farle un nome io oggi. Mix 24. Allora, questa volta? Questa volta perché il filosofo stamattina ha spiegato la sensualità. Aveva accanto a sé la seduzione e tutto intorno nel vagone in metropolitana c'era un'attesa fatta di silenzi e di sguardi, ed era proprio quel modo di fare ermeneutica attraverso gli istanti, tutti persi ovviamente nelle avventure. La sensualità non esiste che una sola volta, ha detto. A partire da sé, infatti, si fa marea e avvolge tutto, però anche la seduzione ha voluto parlare, ha voluto dire la sua, e ha spiegato che è soltanto la creazione di un simile a sé vivente, tutto quel battere del batticuore e l'andarsene fuori da sé, è ciò che effettivamente si vuole essere. E il filosofo, non sapendo cosa replicare, ha slacciato il suo mantello e vi ha accolto dentro in un abbraccio una signora che, certo, era innamorata, ma aveva trovato in lui l'uomo con cui agghindare di enigmi un amore finito alla prossima fermata. E vai con le bolle, Mario. Bene. Il principe Abdullah è furibondo e chiama immediatamente l'ambasciatore saudita a Washington, ordinandogli di trasmettere un messaggio fermo e deciso all'amministrazione Bush. Allora, e questo è un frammento dello speciale che poi per la storia andrà in onda tra un po'. Dopo il giornale radio. Dopo il giornale, sì, radio, curato da Marina Milone. Oggi faccio un po' la tua parte in questo punto. E lo abbiamo introdotto perché è morto Abdullah, il re dell'Arabia Saudita, era uno dei regnanti più anziani del mondo, aveva 91 anni, si apre un capitolo nuovo e molto incerto in realtà per il Medio Oriente. La successione è per via familiare e il più anziano, questo è il metodo, diciamo, della monarchia saudita. Quindi è salito al potere il fratello Salman, 79 anni, il quale però ha serissimi problemi di salute, cioè è affetto da demenza, e dunque tutti, in realtà c'è un re al quale non guarda nessuno, guardano al suo successore che è Mukrin l'altro, il quale però sarebbe un diciamo inadatto di un altro tipo, cioè totalmente incapace di regnare. Quindi qua è la fine di fatto lenta di una dinastia, di una dinastia che noi racconteremo, appunto, certo. La stabilità dell'Arabia Saudita non sfugge a nessuno, è fondamentale non solo per il Medio Oriente ma anche per l'Occidente, va da sé, parliamo del principale alleato nell'area degli Stati Uniti, il più grande produttore di petrolio, il leader del cartello dell'OPEC che conta per il 40% della produzione. Vorrei ricordare che i prezzi non sono scesi perché c'era lo shale oil americano, no, ma perché i sauditi hanno cominciato a giocare all'omino nel pozzo, cioè non hanno mutato la produzione e dunque hanno fatto sì, vediamo che il mercato, esatto, no, facesse il prezzo, e vediamo chi resta nel pozzo. Che succederà? Io non lo so, vorrei sentire te e buttafuoco su questo, perché in realtà si apre un capitolo molto, molto intenso a mio avviso. Pietrangelo? Succederà che prosegue un nuovo capitolo di quella che è la guerra civile globale all'interno della Umma islamica, perché ovviamente i sauditi e la monarchia saudita non ha una legittimità, non è riconosciuta neppure nell'asse delle monarchie tradizionali. E tutto questo apre una questione ulteriore, appunto perché si ha a che fare con un regime totalitario, né più né meno, che poco ha a che fare con la religione. Giovanni, secondo te che cosa fanno a Washington adesso? Credo che sia un problema veramente grosso, che assomiglia un po' a quello che è capitato alla fine dell'Unione Sovietica, qualcosa di simile. Sì. Mix 24. Amici tra i nemici, nemici tra gli amici. Opposizione interna a Silvio Berlusconi, il leader di Forza Italia, che infatti ha trovato con... in Raffaele Fitto, lo abbiamo sentito prima, un'opposizione all'acido muriatico. E la stessa cosa invece dall'altro lato, l'abbiamo sentito, la carica del 101, allo stesso modo Matteo Renzi con Stefano Fassina, che dice è lui che fece da capo ai 101, cioè sono quelli che nel 2013 affossarono l'elezione di Romano Prodi al Quirinale. Comunque, andando, e io mi affido sempre a Balzac, ovvero sia, e se lo pseudonimo... Sì. Cioè no, è Balzac che si firma con lo pseudonimo di Carmelo Lopapa su Repubblica. Vado a leggere una cosa molto curiosa, e cioè che dopo giorno 29 gennaio Renzi avrà bisogno dei nostri voti per governare. Sono parole di Silvio Berlusconi. E quindi se ne deduce che l'alleato più sicuro di Renzi è il Cavaliere. Ma i nemici tra gli amici che cosa fanno? Capiscono che è in arrivo la cosiddetta sola, cioè dovrebbe essere, credo, è una fregatura. Eh sì, eh sì, una fregatura. Figurati se non lo frega. E quindi Fitto infittisce la polemica e ruggisce no, fortemente no, a... Nel senso che, vedete, questo sì che è un ricordo, no? Forza Italia, perché dice finiremo tutti a cantare Forza Matteo. Allora l'abbiamo sentito ma prima. Ma l'inno non è stato ancora scritto. L'inno, forza, ma devi sostituire la parola Italia, metti Matteo, e forza Matteo che siamo tantissimi, e forza Matteo che siamo bellissimi, e forza Matteo che insomma ce la caviamo, e forza Matteo che ci mettiamo, appunto, come ha detto, sgualciremo inutili disabili gli abiti blu, perché sapete cosa è successo? E cioè che Luca Lotti e Denis Verdini hanno preparato un elenco di nomi dove... sul foglio. Dove? Uscito? Sì. Dove? Ma hanno smentito tutti. Ma no, chi hanno smentito? Chi hanno smentito? Non ha detto che cosa è capitato. Un elenco di nomi? Un elenco di nomi a cui Matteo Renzi manda a dire questo. Vengo a prenderti stasera sulla mia torpedo blu. Auto blu ben individuata da Raffaele Fitto, attraverso la quale questi diventeranno tutti ministri. Insomma, la morale della favola è una sola: fecero pace i cani e i lupi, cioè Berlusconi e Matteo Renzi. Se ne deduce: povere capre, sventurate pecore. Una gin Arlon sulla mia torpedo blu. Ancora una bolla veloce, Mario. Meno male, non ce la facevo più con questa vecchiume che mandate in onda. Questo è Pushing. Per fortuna ci sei tu. Allora, e se non funziona? Io devo pur dirla questa cosa. E se le misure straordinarie di Draghi non funzionano, che si fa? Prendiamo tutto, chiudiamo tutto, baracche e burattini, e ce ne andiamo da qualche parte. Allora, io ho visto un'analisi fatta da Dominic Wilson, che è di Goldman Sachs, che mi ha fatto accendere, così che avrebbe detto Mario, ha fatto accendere tutte le spie del sommergibile. come quando vedi una bella donna intelligente. Quindi, cosa l'ha detto questo Dominique? Questo Dominique ha detto che sostanzialmente non ci sono le condizioni affinché il quantitative easing funzioni. Quindi non funzionerà. I tassi dei titoli di Stato a 10 anni sono più bassi di quelli del Tesoro in USA. L'iniezione di denaro soprattutto non è accompagnata da stimoli fiscali e riforme strutturali. Obama ha accompagnato la Fed con 830 miliardi di dollari di stimoli fiscali. Dove sono in Europa e dove sono le riforme strutturali? Mancano. Io spero che vada tutto bene. Speriamolo. Comunque tutti. Allacciate le cinture. E intanto allacciamo le cinture anche per sentire questa lettera incredibile che ci racconta la quota rosa di Sara Tardelli. Scritto Davide, proprio tra l'altro stanotte ci ha scritto, quindi è fresca questa lettera. Cara posta del cuore, non c'è nulla di più sopravvalutato del sesso. Diciamoci la verità, quante prestazioni spettacolari possiamo dire di esserci rimaste impresse nella memoria. Per non parlare degli imbarazzanti, patetici sforzi fatti di cene, incontri ed sms riempiti da parole vuote, dette senza troppa convinzione se non viste attraverso la prospettiva dell'accoppiamento, il sacro graal che spesso si trasforma in tazzina di caffè, bevuta peraltro tutta d'un fiato. Senza sesso staremmo molto meglio, saremmo meno angosciati, incoerenti, umiliati. Ho 31 anni e le mie energie non le voglio spendere così. Ho capito che ciò che ci qualifica come veri uomini è comprendere che le parole sono davvero importanti. Amarti e onorarti per tutti i giorni della mia vita. Non è affatto una formula di rito. È una poesia romantica medievale da ripetere ogni giorno sotto il balcone della propria amata. È una preghiera che ho pronunciato davanti a mia moglie, i miei cari ed io, e da essa traggo ogni giorno che passa sempre più forza e senso di responsabilità. Cara posta del cuore, non ho segreti inconfessabili di cui parlarti o vergognarmi. Sono solo un uomo che l'amore ha reso invincibile come se avesse bevuto la pozione magica di un druido, altro che l'effimero sedicente spirito di potenza di un orgasmo. La vita, secondo me, è tutta qua: amare e capire l'importanza delle parole. Tu come la vedi, Pietrangelo? Il lettore, che lapsus, l'ascoltatore, Davide, dice che il sesso è sopravvalutato. Sì, è vero, il sesso è sopravvalutato, purché si salvi l'eros, perché l'eros invece presiede, potente ed è sovrano, perché la sensualità vince sempre sulla seduzione, perché la sensualità è batticuore ed è ciò che fa respirare, e il respiro è ciò che guadagna lo spazio di una vita, dove uno trova due, e da uno e due poi c'è il generare di quei giorni. E quindi tanto di cappello a Davide, perché Mario, è vero, Leo Longanesi diceva: l'amore è l'attesa di una gioia che quando arriva annoia. Ma tutto questo invece, il racconto di Davide, è il respiro. E il respiro descrive la vita. Davide, fantastico. Io resto senza parole da questi due uomini, uno in fila all'altro, che devo dire mi stupiscono. Posso riequilibrare oggi la situazione? No, no, adesso io voglio dedicare una canzone a Davide, romantica come Mario, lui. Mario, non puoi rovinare tutto. Star shining bright above you, night breezes seem to whisper I love you, birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me, just hold me tight. Dopo il giornale radio, come ha detto Mario prima, Lina Milone ha curato lo speciale sulla dinastia Saud in Arabia Saudita.